Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da via Zanardi in Bologna, nonché potete ascoltarci con l'apposita app che potete tranquillamente scaricare dal nostro sito gratuitamente e che vi dà l'opportunità di ascoltarci all over the world, in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che inizia con la sigla di Eric Clapton e Laila, e Città Fujiko Live Club nella persona di Nevio vi ricorda che siamo nel pieno della campagna abbonamenti, quindi cercate di aiutare questa radio indipendente che cerca di rimanere indipendente a tutti i costi. Ogni mercoledì un paio di ore di musica dal vivo che parte sempre con una novità, e quest'oggi abbiamo una novità molto grossa, nel senso che il titolare della novità di oggi è un mega uomo, è un enorme uomo che risponde al nome di Theodore Joseph Ted Horowitz, ma molti di voi lo ricorderanno solamente come Popa Chubby. Il buon Papa Chubby è un chitarrista che arriva dal Bronx, quindi penso che ne abbia visto un po' di tutti i colori, ed è da tantissimo tempo sulle scene, tanto che il suo primo album, che si chiama It's Chubby Time, è del 1984, ma uscì solamente dopo qualche uscita discografica che Papa Chubby aveva realizzato in proprio, ma che poi non furono mai pubblicate a livello mondiale. E Bon Pop ha fatto un sacco di album live, un sacco, ne ha fatti diversi, molti dei quali sono stati registrati in Francia, dove è popolarissimo. Infatti molti dei suoi tour mondiali comprendono parecchie date in territorio francese. In realtà la novità che vi propongo oggi è accreditata a Papa Chubby and the Beast Band, che è il trio che l'accompagna, basso, batteria e tastiere. L'album si chiama Live at the G Blues Juke Joint, New York City, ed è un album un po' particolare come album live, perché è registrato davanti a solamente 25 fortunate persone. E infatti il 24 e 25 ottobre dello scorso anno ci fu questa cosa un po' particolare da parte di Papa Chubby, che fece questi due concerti davanti a 25 più 25 persone per sera. Andiamo subito ad ascoltarci questo Papa Chubby con un brano non suo, che è un brano di Neil Young che certamente conoscerete, viene dall'album Comes the Time del 1978 e che però è da sempre nel repertorio del chitarrista newyorkese. Si chiama Motorcycle Mama, Papa Chubby and the Beast Band. C'è un piccolo inghippo, adesso dovrebbe partire. No, non parte. Vediamo un po' cosa succede. Y'all ready? Y'all ready? Brano di apertura del nuovo album live di Papa Chubby, in questo caso accompagnato dalla Beast Band. L'album si chiama Live the Bluesy Juke Joint New York City e si apre con questa cover di un brano di Neil Young che si chiama Motorcycle Mama. E non ho scelto a caso questo pezzo perché mi è venuto lo sghiribisto, diciamo così, di ascoltare, grazie a questo aggancio, un po' di covers che sono uscite nel corso degli ultimi mesi nei dischi che sono, o nei CD, scusate, che sono usciti, e anche nelle vinili effettivamente, che sono usciti negli ultimi mesi, e ce ne sono veramente tantissime. Quindi cominciamo subito con una molto particolare, solo piano e voce, per un brano che già di suo era bellissimo. Questo è, osa dire, struggente. Lei si chiama Norah Jones. Molti di voi sapranno che è la figlia di Ravi Shankar, famoso sitarista indiano, cioè suonatore di sitar, colui che aprì il concerto per il Bangladesh nel 1970. Lei, la figlia, appunto, i suoi genitori si separarono, lei andò a vivere con la madre, ma poi si è anche riappacificata col padre in tempi seguenti. Il suo primo album è stato nel 2002 ed è stato un grandissimo successo. Questo live, che si chiama Till We Met Again, è stato registrato in varie location. Quella che ci andiamo ad ascoltare è la cover di un brano di Soundgarden, si chiama Black Hole Sun, ed è stato registrato al Fox Theater di Detroit nel maggio del 2017. Norah Jones, Black Hole Sun. Back home. She said, ha! Say papa never worked a day in his life. And mama, they had talk going around saying that papa had three outside children and another wife, that ain't right. But some talk about doing some stuff frying preaching. Talk about saving souls and all time leeching. Dealing in dirt, stealing in the name of the law. Mama just hung her head, she said, papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Just to pay his bill. Folks say papa wasn't too much out thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hit a song. She said, son, papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Questi erano i Black Crowes. Nel corso del 2022 fecero un tour nel quale riproponevano integralmente il loro album d'esordio, il loro fortunatissimo album d'esordio che si chiama Shake Your Money Maker, e quel tour è stato documentato da questo album che si chiama Shake Your Money Maker Live, come i concerti che erano appunto in quella serie. Oltre alla versione integrale di Shake Your Money Maker c'erano diverse covers, si andava da Lou Reed, Akon the Bunnymen e tanti altri, e fra queste covers c'era questa Papa Was a Rolling Stone, un classico della musica di tutti i tempi, firmato Norman Whitfield e Barrett Strong. Scusatemi, come sentite la mia voce sta facendo le bizze, e originariamente questo brano era stato pubblicato in prima battuta da una band che si chiama Undisputed Truth nel 1972, ma nello stesso anno lo registrarono anche i Temptation e in questa forma divenne molto più famoso. Papa Was a Rolling Stone, questi erano Black Crowes. Thank you. my hometown. They're trying to track me down, and they say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, or the life of a deputy. And I say, I didn't mention no deputy. I shot the sheriff, but I didn't mention no deputy. Sheriff John Brown always hated me. Why, I don't know. And every time that I planned to see, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. And I say no. I shot Sheriff, but I swear it wasn't self-defense. Capital offense. Freedom came my way one day. I started out of town. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I thought I had to shoot him down. But I did not shoot no deputy. No, no, no. I shot Sheriff, but I did not shoot no deputy. E il 2023 ha visto numerosissime ristampe pubblicate in tutto il mondo, tutte più o meno ampliate, ci sono state ristampe del trentennale, del ventennale, del decennale e tutte molto interessanti perché quasi tutte contenevano cose dal vivo. Eric Clapton ha un tantino esagerato, 24 Nights uscì come doppio CD l'8 ottobre del 1991, è stato ripubblicato poi nel giugno di quest'anno, del 2023, in formato mega galattico con tre doppi CD. Spiego perché. Don't you forget to pray, 'cause they'll be hard. Lui fece una serie di serate alla Royal Albert Hall, una parte era rock, una parte era blues e una parte orchestrale. E appunto lui ha ripubblicato tre doppi CD, uno orchestrale, uno blues e uno rock. Noi ci siamo ascoltati quello orchestrale con la sua versione di questo brano, famosissimo, I Shot the Sheriff, di Bob Marley, un brano che proviene da un album che si chiama Burning del febbraio del 1973. When I had to pawn my clothes. E ci sono cover che riabilitano, fanno conoscere, ripropongono e abbelliscono, diciamo così, brani che erano caduti nel dimenticatoio. È il caso del pezzo che ci andiamo ad ascoltare adesso, un brano che si chiama The Man Who Sold the World, era pubblicato nell'omonimo album di David Bowie del novembre del 1970, ma i Nirvana di Kurt Cobain se ne appropriarono, ne fecero una propria versione abbastanza simile, a dire il vero, a quello originale e l'hanno inserita in versione live in questa riproposizione per il trentennale del loro album che si chiama In Utero. Il tutto è stato registrato a Seattle il 7 gennaio del 1994, quindi pochi mesi prima che il buon Kurt Cobain si suicidasse. The Man Who Sold the World. Where? something from a little further back of you. This probably comes from about 1938. Where the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking. What a crazy sound. Where they never stopped rocking until the moon went down. Well, it sounded so sweet, I had to take me a chance. I rose out of my seat and I began to dance. I started clapping my feet and clapping my hands. For the girl I'm rocking, going round and round. Carrying and I'm rocking. What brings us out? Well, the nails are rocking till the moon down. About 12 o'clock, you know the place was packed. I said the place was packed. When the police knocked, those doors flew back. Oh, when the came on rock, coming round and round. Yeah, reading and rocking. What makes the sound? Well, the bells are rocking till the moon went down. Rock, rock, rock, da un brano scritto da David Bowie siamo passati a un brano interpretato da David Bowie, questo era facile. L'ultimo concerto di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fu registrato, fu filmato diciamo così, e qualche tempo dopo uscì nelle sale insieme anche alla colonna sonora che si chiama appunto Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, the motion picture soundtrack. A distanza di 50 anni questa è uscita la versione del cinquantennale, e ci sono state molte altre ristampe più o meno valide nel corso degli anni, ma questa è quella definitiva perché comprende due brani che non sono mai stati inseriti nelle altre ristampe. Uno è quello che ci siamo ascoltati e l'altro è un medley di suoi brani. Questi due pezzi sono stati fatti insieme a Jeff Beck e questo era un classico della musica rock, si chiama Round and Round, un brano scritto da Chuck Berry, è uscito nel 1958, come ha detto il buon David, come singolo. Well, the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. È stato pubblicato anche un album che in realtà è stato registrato a Rio de Janeiro nel 2015, ma è uscito solamente ora. Un album degli Hollywood Vampires, che è una super band che comprende Alice Cooper, Johnny Depp, che oltre ad essere attore è anche un valente chitarrista, Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith, e Tommy Eriksen, chitarrista che ha suonato con parecchie band più o meno famose. Il tutto accompagnato dalla sezione ritmica di Duff McKagan e Matt Sorum, che è stato per vario tempo una sezione ritmica dei Guns N' Roses. Live in Rio comprende un sacco di covers, ma per voi ho scelto questa che non presento nemmeno. You see? quei pochi, pochissimi credo, che non lo sapessero, questo era All Out of Love, uno dei grandi classici delle Zeppelin, uno dei grandi classici della musica rock di tutti i tempi, proveniente dal secondo album, Led Zeppelin 2, che uscì nell'ottobre del 1969. Questa era la versione che ne diedero gli Hollywood Vampires, super band come vi dicevo prima, e a Rio de Janeiro nel settembre del 2015 è contenuta in questo doppio album CD più DVD che risponde al nome di Live in Rio. Yourself, heart attack and die. Doctor, lawyer, make a man face. Feel it your way, long ago. I don't disbelieve. Wanna see some madness? Gotta stay in line. You recognize yourself, heart attack and die. See that little Jersey girl in the sea clothes. Recognize yourself. Città Fujiko Live Club, seconda parte, Città Fujiko Live Club del 13 dicembre del 2023, Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, una cosa del genere. E iniziata la seconda parte con la novità che vi propongo quest'oggi, Papa Chubby, il suo nuovo album live che si chiama Live the G Blues Juke Joint New York City, e che contiene diverse covers. Una ve l'ho già fatta ascoltare in apertura di prima parte, era Motorcycle Mama. Questa invece era Heart Attack and Bine, e la title track dell'album del 1980 da parte di Tom Waits. E come sempre, anche in prossimità del Natale, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, lo ripeto, lo so, sono pesante, ma bisogna dirlo, tantissime cose registrate in questo giorno, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E oggi iniziamo dai tardi anni 70, siamo in compagnia di un trio che arrivava da Woking nel Surrey, fu fondato nel 1972 da Paul Weller, capirete che sto parlando dei Jam, che si sciolsero nel 1982, nel dicembre del 1982, qualche giorno dopo fu pubblicato il loro primo album live che si chiama Dig the New Breed, album che è stato registrato in diverse località, in diverse occasioni. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare adesso è stato registrato a Rainbow di Londra il 13 dicembre del 1979, si chiama It's Too Bad. Too bad. È troppo cattivo, ci dicono i Jam, o è troppo cattiva, dipende dai casi. Siamo a Rainbow di Londra il 13 dicembre del 1979, l'album si chiama Dig the New Breed. Andiamo velocemente, 1987, una band che prende il nome da uno dei personaggi di David Copperfield, sapete meglio di me, chi era Uriah Heep. Loro sono formati nel 1969, quindi tantissimi anni fa. L'unico membro originale rimasto è Mick Box, il chitarrista, che è da sempre appunto nella band. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live in Moscow, è stato registrato durante 10 show all'Olympic Stadium di Mosca dal 7 al 16 dicembre 1987. Spero per loro che lo stadio fosse coperto, perché in questo periodo credo che a Mosca non ci sia proprio un tepore. Ma andiamo avanti. Questo album si compone ufficialmente di 10 pezzi, fra cui non è compreso Gypsy. Quando me ne sono accorto ci sono rimasto abbastanza male, perché Gypsy è la signature song, come si suol dire, la canzone principale del repertorio degli Uriah Heep. Poi ho scoperto che c'è un'undicesima traccia, quello che viene chiamato un hidden song, ed è stato registrato proprio il 13 dicembre del 1987 e si chiama proprio Gypsy. of mine that he'll understand. Fra le poche band e i pochi artisti che gli Uriah Heep di cui sto parlando che superarono la cortina di ferro, siamo nel 1987, quindi la caduta del muro è ben lungi da avvenire, e però ogni tanto, non so bene per quale motivo, scambi culturali, chiamiamoli così, alcune delle band anglo-americane riuscivano ad andare in Russia, specificatamente quasi sempre a Leningrado o a Mosca, e molti di questi hanno registrato anche degli album, vedi ad esempio Billy Joel. Il tutto è stato appunto registrato a Mosca dal 7 al 16 dicembre del 1987. Voi vi domanderete come fai a sapere che questo brano è stato registrato la sera del 13? Ve lo dico sicuramente: su 10 concerti che hanno fatto, tutti sono finiti con questo pezzo, quindi era abbastanza semplice da individuare il 13 dicembre come data di esecuzione di questa Gypsy che ci siamo ascoltati dagli Uriah Heep 1987. I Little Feat sono una band che viene da Los Angeles, California, è stata formata da ex membri della band di Frank Zappa o ex personaggi che circolavano nel suo ambiente. Si sono sciolti una prima volta nel 1979 a seguito della morte di Lowell George, che era il chitarrista, cantante e leader, che comunque se n'era già praticamente andato dalla band. Poi si sono riuniti nel 1987 fino ad oggi. Hanno fatto diversi album live, tipo questo che si chiama Live from Neon Park. È stato registrato in diverse occasioni e in diverse epoche, naturalmente. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Roseland Theater di Portland, Oregon, il 13 dicembre del 1995, ed è un classico della produzione di questa band, è diventato un super classico, è praticamente negli Stati Uniti è un inno dei camionisti. Non conosco bene il testo, una volta me lo ricordavo ma adesso non lo ricordo più, però è suonato, è cantato anzi a squarciagola da tutto il pubblico, e ce lo andiamo ad ascoltare. Si chiama Willing Little Feet, 13 dicembre 1995. Gotta do one for Lowell George, what do you think? was warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, and don't you know I'm still. Out on the road late at night, I seen my pretty Alice near a headlight. Alice, Dallas Alice. And I met from two songs that you come carry. I had to be the tone of all, dripping every kind of egg that's ever been laid. Given the back roads, I wouldn't get away. And if you give me Il 13 dicembre del 2007 i Black Rebel Motorcycle Club erano in concerto in quel di Dublino alla Ambassador Hall e naturalmente omaggiarono la città in cui che li ospitava con un brano caratteristico scritto da Ewan McCall, si chiama Dirty Old Town, spero che lo conosciate perché credo che lo conosciate maggiormente nell'interpretazione dei Pogues. E con questo colgo anche l'occasione per ricordare il grande Shane McGowan che ci ha lasciato la scorsa settimana. Si chiama Live questo doppio DVD più CD, che è la prima uscita ufficiale live dei Black Rebel Motorcycle Club, che è un trio che arriva da San Francisco, sta insieme dal 1998, anche se nel corso della propria storia ha cambiato un paio, forse anche tre batteristi. This is gonna be interesting. Passiamo al 2014, arriviamo negli anni 2000, insieme c'eravamo già con i Black Rebel Motorcycle Club, andiamo avanti negli anni 2000 e parliamo un po' di Warren Ace, grandissimo chitarrista che abbiamo visto il mese scorso qui a Bologna in uno splendido concerto insieme a Gov Mule. Lui è anche un benefattore, diciamo così. Ormai dal 1988, quindi tanti anni, organizza un benefit concert, detto anche Christmas Jam, nella sua città natale che è Asheville, in North Carolina, anche se lui oramai vive stabilmente a New York. A questa kermesse partecipano tutti i suoi amici, fior fiore di musicisti, e sono tutti molto interessanti. Ne sono usciti 5 numeri, anche se quello che ci andiamo ad ascoltare è il numero 16, però in questi ultimi giorni è uscito il numero 20. Non è una cosa sequenziale, non capisco bene questa numerazione, vi assicuro che ne sono usciti 5 come CD più un paio come DVD, ma andiamo ad ascoltarci adesso proprio i Gov Mule insieme a Jackie Green, che è un grande chitarrista che ha suonato per qualche tempo anche con i Black Crowes e che rimanendo in tema di covers ci offrono una Tonight's the Night di Neil Young al 13 dicembre del 2014. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Bruce Berry was a working man. He used to know that a condomine plan. A sparkle was in his eye, but his life was in his hands. Late at night when the people were gone, he used to pick up my guitar, sing a song in a shaky voice that was real as the day was long. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Un classico di Neil Young riproposto dai Gov Mule con l'aggiunta di Jackie Greene, che è un grande chitarrista. Il tutto arriva dal volume 16 del Benefit Concert, questo concerto benefico. Tutti i proventi, al netto delle spese naturalmente, vanno a delle associazioni umanitarie della zona di Asheville, North Carolina, dove è stato registrato praticamente quasi tutte. Tutte le ultime, diciamo, dagli anni 2000 in poi, a Asheville, North Carolina, esattamente al Hughes Cellular Center, uno dei grandi locali di quella città. In questo caso era il 13 dicembre del 2014, ma andiamo a concludere, perché il brano che ci andiamo ad ascoltare ha bisogno di una piccola presentazione. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 circa, dai 103.1 MHz modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko da Bologna. Dicevo, una piccola introduzione per l'ultima cosa che ci andremo ad ascoltare, che è ad opera di un quintetto che arriva dalla Scozia e che è attivo dal 2003. Si chiamano Twilight Sad. Li abbiamo visti lo scorso anno, la notte di Halloween, aprire il concerto, il magnifico concerto dei Cure. Anche loro non sono niente male, ma oltre a non essere male come band, hanno anche una marcia in più, nel senso che avevano reso, non so se lo sono ancora, disponibili a gratis, come si dice a Bologna, due live album sul loro website, non so se lo siano ancora, vi dicevo. Ma oltre a questo, tra l'altro due live album notevoli, oltre a questo, dal tour dello scorso anno con i Cure hanno pubblicato sempre gratis diversi brani, non dico uno per ogni sera del tour, ma parecchi, arrivano due dischetti belli tosti, e quindi sono meritevoli, oltre che di un ascolto, anche di tutta la nostra benevolenza. Loro hanno registrato il brano che ci andiamo ad ascoltare a Wembley il 13 dicembre naturalmente del 2022, qualche giorno dopo essere appunto stati a Bologna. Si chiama The Wrong Car, loro sono Twilight Sad. Io vi ringrazio per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio. That you see a bricks of a bar.